cadaveri, ci siete, tutti morti siete, ora pronobis, bello me, citando state. Attento, bello me. Ciao Bacchi, pio pio ti sento. Fai un passaggio, non ti sento più. Bacchi, attenti. Dove mi scrusato? Bello me. Beh, bello me, bene sai. E tu bene stai, amico mio? Bene io, bene tu stavo. Bene, amico, vi ringraziamo. Un po' bassino, se prova a alzare il volume, prova. Guarda, uno, due, tre, prova. Bene, bene, bene, va bene, tu c'hai un po' il naso chiuso, quello è il classico, lo sappiamo, riprova. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, Graziano, cambio. Bello, proprio da 69. E invece con questo è diverso. Con questo sei più forte, si sente ancora meglio. Quella è l'antenna esterna allora. Esatto, quella lì è quella che ho piazzato quella sera, quella sera. Comunque mi riceve bene, sì. Chiarissima e forte, aspetta, prova a spostarmi, così prova, così. No, questa è sempre la solita antenna, questa è la normale, là. Quella che stiamo usando sempre, uno, due, tre, provo, ok. Questo è il primo, adesso accendo l'altro, mi dai un altro controllo, aspetta, eh. Hey, you. Questo è il secondo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanti Graziano, cambio. Ehi, già ti copio, però qua ti porti appresso un rumorino così. Va bene, dai, interessante che mi copi, dai. La modulazione è chiara comunque, sì. Mi porto avanti un po' leggermente quel remo, no? Sì, sì, già è chiara la modulazione, però se sposto la mano da dove sono, entri nel QRM. Invece poco fanno. Sì, perché questa antenna è puntata verso Sennori anziché verso Sassari. Dunque la differenza c'è, comunque va bene lo stesso, vai. No, così questa posizione dove ce l'ho adesso sul tavolo, o è soddisfatto, mezzo metro, si sente abbastanza bene. Aspetta, mi sposta leggermente. Prova, già sarà avanti intendo. Quella lì è l'antenna è puntata, verso Sennori è puntata, capito? Invece questa qui è la normale, dai. Con questa ti sento bene, ti sento abbastanza bene, chiaro. E ho spostato anche il braccio al ciglio del tavolo, ti scuffio bene ancora qua. Ok, dai. No, quella lì è un'antenna autocostruita, quella là, è puntata. L'ho messa, che ti ho fatto la foto verso il ripetitore di segno, là, comunque già va bene. Andare, siamo soletti? L'ho accesa adesso io perché ho mandato mia figlia a farmi fare il decespugliatore da quel coglione che mi ha mandato tutto a pezzi, tutto di montato, che da me noi mi manco un pezzo di decespugliatore mio. E la ditta mi figlia, lei cosa le fa più padre? E mia figlia gli ha detto cosa ne so cosa ne fa. Tanto se non funziona lì cosa ce ne fa? E adesso lo tratta a fare i pezzi, non hai compreso? Che poi quelli non erano neanche i pezzi del decespugliatore mio. L'ha dato Mondetta e l'ha detto che erano i pezzi, hai compreso? Quello lì è un randaggio, grazie, l'ho già conosco, sì. È un randaggio. Lo conosco una vita quel ragazzo. È un ragazzo, conoscevo bene lo suocero. Oh, Ioia. Bene, avanti. Ehi, là giù di montato, l'assa, il rocchetto, l'acceleratore, tutto il coso completo, il carburatore me l'ho conservato, è nuovo. E tutto l'altro, l'ha detto, non mi accorgo, ma ha detto che non funziona. Ah, ma si l'ha potuto, ma è non ne biglia. quando venne mia moglie dice adesso posso raffare tutta la mombetta. Hai fatto bene, non devi lasciare niente, hai capito? Non devi lasciare niente. Quello lì lavora tipo Mariani una volta, no? Una volta gli aveva regalato un coso, un motozappa, e mi aveva detto, guarda, ci vuole troppa spesa, non si può aggiustare. Ha detto, vabbè, già passavo male, io lo porto via, ma se vuole lo può lasciare qua, ce l'andiamo noi, no, me lo porto via, vai, e ammazzati, vai. L'ho preso, l'ho demolito e ce l'ho buttato, ma Edo non è già la caduta. Hai fatto bene, la ditta mi figlia, cosa se ne fa tuo padre, tanto non si può aggiustare. Non lo so cosa se ne fa, però lo vuole indietro. Ha pigliato una busta da questi pezzi di Mondezza, a Trento, non hai compreso. Tutti i pezzi vecchi, arruinati. Ma fammi vedere che erano i pezzi che hanno smontato da Romeo, hai capito? Quel miserabile. Però il resto che si poteva smontare, l'assa già era la mia. Il motore me l'ha fatto in 1000 pezzi. Perché se tu le lasciavi in pezzi, la faceva, già lo sai. Il cavatore è più che costa, il cavatore andava uno e io lo facevo pagare, ma capito? E da chi riguarda la matessa, il cavatore, le membrane, tutta questa roba qua. E il Volpino è, non è in vano, è il Volpino. Lo sai, quella antenna mi stanno problemi con la 27, oh grazie, problemi. Adesso mi tocca scenderla con calma, mi devo fare un lavoretto. Lei quando c'è vento gli fa problemi, quando non c'è vento anda bene, un peso va. Ma il mollone c'ha quella, guarda che lo devo registrare il mollone, quella molla come c'è da me in alluminio, oh, ci sono 3 o 4 giri di mollone, quella vuole nel buco suo, vuole la piazzata giusta, quella regola l'antenna, ce l'ha il mollone quella, adesso non me lo ricordo io, l'ho vista. Però non me ne ammetto, mollone c'è. Ma questa guarda che non è la 5 ottavi, non è come la tua questa è la nuova. Questa c'ha 8 radiali, c'ha questa, capite? C'ha una bobina trasparente, c'ha una bella carica. C'ha una bella carica, una bella molla proprio, bella, capite? Minimo c'ha una carica di 10 cm, una bella carica. Quando, per esempio, ieri sera ho sistemato, ho da posto, che ora era? 3:30 là, 3:30 stavo andando un bombo appunto, avevo anche un collegamento fuori, arrivavo proprio a fortissimo fuori. Adesso le 5:36 accendo, c'era vento. Oh, nulla, già esce ma esce male, capito? Dunque adesso accendo, la devo nuovamente levigare con la moletta dove l'ho levigata l'altra volta e gliela blocco. Sicuramente quando c'è vento tocca o non tocca perché non fa massa, poche parole. No, guarda che la devi bloccare bene, gli innessi, li devi incassare, al limite gli fai 2 buchetti e ci metti 2 viti autofilettanti, ci puoi mettere per bloccarla e te la tiene ferma, capito? E poi sopra ci passi una passata di nastro vulcanizzante, capito? No, io la mia, quando non l'ho scesa, l'ho fatta in 1000 pezzi, l'ho anche accorciata roba di 20-30 cm, perché quando l'ho smontata non uscia, né come te l'ha incasciata, c'era tutto sfilato. Allora l'ho presa col martello, no, per sfilarla, si è tutta arruinata. E i pezzi rovinati li ho tutti tagliati, e l'ho ripiazzata, l'ho pulita bene, messo il grasso vasellina, e gli entrambi gli uscivano e sfilavano bene a mano, però poi gli ho messo le viti da me, grazie a causa la linea. No, io le mie tutte con le viti non le ho messe così, no. ogni stilo ha la sua vite, hai capito la linea? Dunque non c'è problema, anzi le fascette sono bloccate con le viti, non è quello il problema, è che c'è qualcosa che non fa massa, quando c'è vento tocca ma non tocca. Già le posso trovare questi giorni qua, la scendo nuovamente e faccio un bel lavoretto che faccio. E guarda, prima di scendere hai provato ad aggiungergli un filo di massa, tu glielo aggiungi un filo di massa e lo metti a scaricare sul tetto stesso, uno spezzone di filo. Fai un pochetto, ci metti una vite, gli avviti un pezzo di filo e lo metti a scaricare sul cornicione del tetto, capito? A vedere, e fai le prove così. Adesso vediamo questi giorni, adesso bisogna che mi faccio pensare, non è già scala, come ci vuole la scala alta, io ho una scala di due elementi, tipo quelle del Lener, ma non ci arrivo, e ho rubato le fissanti da voi. Invece mi hanno fatto pensare al mio confinante, nell'alluminio, tranquilla e serena, certo ci vuole sempre una persona che mette il piede sotto, però la puoi muovere come ti piace, capito? Quello che cade il filo ci ho già pensato anch'io, vediamo, dobbiamo fare le prove, faccio le prove e basta, avanti. Prima fare le prove così con uno spezzone di filo come ti ho detto io. E provi, se vedi che va bene lo lasci così, te lo blocchi bene dopo, capito? Così non te la faranno nulla, hai compreso? E vedi se va bene. E no, a te in campagna lì ci vuole una scala come quella che c'è nella fotografia. Alla Bri come c'era, 99 euro costava, uguale a quella che c'avevi lì, che ho visto nella foto. A te lì in campagna ci vuole per forza una scala così, perché è alto da te, se devi fare qualcosa sul tetto ti rivolgi e devi andare a domandare, capito? Adesso vediamo, perché io ho due elementi, ce l'ho, capito? Arriva lì, con quei due elementi che ho io, arriva sopra, ma è troppo pesante, grazie, sono pesanti, sono quelli in resina, tipo sierte diciamo, là, quelle gialle, so. È nuova, va bene, ma è pesante, invece va là, è più leggera, e adesso vedo, adesso vediamo, perché il ponteggio ce l'ho, fanno pensare il ponteggio, ogni volta tu hai il ponteggio, è completamente di scatto, invece con la scala la prendi, la apri, la fini e sei già sopra, hai capretto? Il ponteggio va bene quando devi fare altri lavori, che ti devi spostare, non so, di 2 metri, così va bene. Ma ci devi alzare, farà solo, ti conviene una scala, te la compri la bricome, ti rimarrà passi 20 euro al mese, ma così in abisi, quando raggiungi la somma, passa e te la compri, così non ti domandano da nessuno. E poi serve sempre la scala, specialmente tu che è un bel alto lì, quella palazzina, va bene, io ce l'ho in campagna, ma è a due elementi. Ed è puro di ferro e viene a fare i buchi, anche un piano giù per salire sul tetto. Poi già ce l'ho anche il ponteggio, eccetera, eccetera. Adesso io non ho ponteggio, io ho il ponteggio con le pedane anche. Ho una decina di elementi. Ne avevo più di 100, alla fine ho preso e l'ho ragazzo, un amico, mi hanno tenuto 10 e basta, insieme alle pedane, capito? Anche io non avevo tenuta. Mi basta quei 10 a fare il castello, cioè fino a per i porci, e adesso vediamo, dai, quella lì è a 2 metri, non so se era 7 metri, se non sbaglio arrivavo con la scala, sui 7 metri più o meno, e va benissimo. Bene, vediamo se c'è Gio Maria. Oh, non sente mai nulla. Il ponteggio riservatelo bene, mi copri, lo metti in un posto dove non prende acqua, se no ti si brasecheggia. Io ce l'ho, però è conservato dove c'avevo le galline prima, è dentro lì e non è tocca a Eva. Ed è come quando ce l'ho messo, capi? Se lo lasci fuori si rovina. Oh, grazie, mi sposto, 2 minuti solo, c'è un posto che devo attaccare il macchinario adesso, là. Già arrivo subito, grazie. Vai, già sono qua, ok. Attento Luca Manicomio, ci sei. Chi era? Cuffetta. Dormi, che mamma ha fatto le gnocchi. No, sono rientrata adesso, grazie. Vado a fare una cuffetta. Ehi, no, anche io l'ho acceso poco fa. C'era Marino, però adesso si è sentato, stava facendo cosa. E niente, no, è stato il vendicosa. Ho demolito quel vecchio spugliatore, che mi era giù, ho fatto arrigare, da esse bucarotto, l'ho fatto a pezzi, cioè mi l'ha trovato a pezzi il motore. E e il resto ne ho smontato la cosa che mi serviva, l'urretto se l'ha giù lampato. Ma perché non si poteva aggiustare? No, mi ha detto di nuovo, se me l'ha tornato tutta a pezzi. Ha detto che voleva pistone, cilindro o biella. Nella busta che me ne ha portato mia figlia erano tutti i pezzi vecchi di altri dieci spugliatori. E i pezzi buoni mesi latenti, non hai compreso. La ditta mi migliore, come me lo vuole tuo padre, cosa adesso mio padre mi ha detto di passare qui a darmelo. E mi l'ha dato tutto di montata a pezzi, mille pezzi, lo motore. Capito? Blu! Ehi, grazie, scusa Lattino, mi stavo sciacquando le mani che stavo dando un piatta marina. Ehi, ed ho svoltato la cosa che mi serviva, il carburatore. Chi l'ha pur giambato, dice vabbè già è buono di scorsa. E l'acceleratore, il rocchetto, l'altro tutta la mondezza, ne ha smontato l'assa, quella me l'ho tenuta a metterla alle piante come paletto. Va tu beh, ma li pensavi, pensava che lui l'assava. E così lui ce l'ha adoperato per i pezzi di ricambio, non hai compreso. Fatti un occhio, guarda cosa ti ha fatto, c'era me e logico lo voglio andare in te, e tu cosa te ne fai? La vita mi migliora, e lei cosa se ne fa a lasciarglielo qua? Non è macco, no? Tutti voi bisogna stiare, tutti voi sì. E guarda, da poco è successo, e anche un bestino lo posso, cioè, l'ho contato il telefono, no? Di volta non si poteva riparare, poi gli ho messo sistemato qua e là, non gli ho mai preso niente, non solo, gli ho fatto anche sgombare 10 euro perché mi ha portato invece a sistemare, no? A telefonarmi, e lui nel mentre che stava telefonando stava parlando, mi dice l'onfio, come mi ha portato la chiamata, mi dice l'onfio mio, oh ciao a me. E allora? Sono tutti precisi, ma tanto non le ho lasciato, mi si la leggita dalla mondezza, da di buon, poi durante una busta là ha detto, mi ho tenuto la cosa che mi potrebbe servire, buh. Però Edo non ne ha giù la casa, a macco. Vabbè, sapevi fare, vi bruma, ringraziamo, magari... È come il tecnico della TV, ma gli portano la TV, va, ci vuole tot, no, non lo riparo. Ma tot, tieni il dito, ma io sono con dei zero si ripara, per dire. Che sono dei anni 20, 30, capito? Funzionava così. Poi se sono onesto, io alla fine mi conveniva più ripararlo che tenerlo io, ripararmelo io. Ma la me non ha mangiato, Barocci, mi ha fottito trattato di cuero. Oh, la prima volta, la seconda non si ha mangiato nulla. E mi l'hai barrato, l'onfio. Già c'era per attenti i bizzimoni. E mi ha pulso la mondezza tra la buccia. Per carità. Aspetta, grazie che devo levare la roba dallo stenditore un attimo. Vai. Lavoro tutta la mattina, non tocco il sigaretto. Caiete su conto. Vabbè, grazie. Aspetta un attimino. Guarda, ti ho mandato una canzone su WhatsApp. L'ho già sentita, grazie. Lu, aspetta un attimino. Via. Che ne stavo mettendo a posto questi documenti del capo. E bello. E Lu. Avevi già sentita quella canzone, lei è bravo quel ragazzo. Ce l'ho il CD anche in macchina, quello che la canta. Fratello e sorella, oggi ho tutti morti, tutti defunti, tutti guardati di Cristo. Lu. Tutti morti, sono già rosso. Animale per l'ambulanza, la buscata da Sion Giovanni, da un grattacielo, e pure un pizzino. Chi tu l'hai ricoverato? Chi tu mi... E Sion Giovanni invece è morto. Grande età. Ma quasi 70 anni mi sono tracciato, ho lavorato al comune, all'autoparco, però quando ci lavoro. E di cosa è morto? Mi deve riparare il suo figlio, non si sa, boh, c'è due a chi va via un'infiammazione, a bisogno per la base a fissa, boh, non sono fuggito. Comunque va via un'infiammazione urina. E cosa ne so, boh? È un casino, boh, boh. L'isola di Tucac è blocco intestinale, boh, no. Sicuramente. Palestamente che non si sa la cosa è musica. Non gli hanno fatto nulla, è morto durante la notte. Mi sono arrivato all'ospedale e la corsia è del musico. Vabbè. Beh, magari va via qualche malanno, ma con i sabbia qualche malanno tipo tumore, cosa ne so. Vuol dire che arrivi dalla Giulia? Non è che era molto grande, no. Quanti anni ci aveva Paoli? Ah, 75. Lui. Ti ho sentito, grazie. Vabbè, vuol dire che... già ti posso dire. Ci ho lavorato insieme a quello, però lui era fisso all'autoparco e mi sembrava più piccolo di età. E chi lo sa? C'è andata a bassa, ho venuta che qua. Non muore di drone, non muore di lampimi. E già si bodiglia la giudizia proprio sotto Runato, tre volte. L'ultima volta, quando mi era pure nel Savacara, mi sembrava che stavo sprofondando nel vuoto. Mi sono abbezzurocci di soffalto e magari dici imbecille che mi erano i zaccendini, sì. Cioè mi avevano portato la maschera ventilata. In canna mi ne ha distrazzata a lui. Posso immaginare. Dica, mi sono cagato sotto. Mi sono visto, mi sentivo e vedevo scendere sprofondando nel buio, nel vuoto. Ma una certa velocità impressionante, a un punto a Giambeciuro c'è ti venga chi si mira la mattina e mi si era in zacca in la maschera perché era addormentato, no? Poi quando ero dormito lei che mi hanno citato, mi dicevo cammini dobbiamo mettere questo, niente, hai compreso? Grazie, ma se erano in bocca vuol dire che era... non lo so, cioè loro hanno studiato, non so in chi va usci pa gusto, Guarda che l'indomani c'era un altro medico, l'ho chiamato apposta e gli ho detto ma la metta adesso la maschera, adesso che sono sveglio, perché ieri notte mi hanno preso all'improvviso quando ero dormito, che mi ha detto che ho bisogno di mettere quella maschera, e quel medico ha preso i documenti, ha guardato e mi ha detto lei non ha bisogno di maschera ventilata, e chi gliel'ha detto? Quella dottoressa che c'era ieri notte, non solo, me l'hanno messa, quando era addormentato mi è sceso un colpo, e siccome non me ne ho voluto mettere quando mi sono svegliato, perché mi hanno fatto prendere un colpo, mi ha fatto firmare anche il foglio come io mi sono rifiutata, io gliel'ho firmata, a me non me ne ha putti nulla, lei mi sta dicendo che non ho bisogno, allora quella là perché me la stava mettendo. Grazie, se te la stavo mettendo vuol dire c'è un motivo, capito? Devi abbucare un cadavere a trucchetti, lì c'era l'accordo. Per un giro di mafia, arrivi, oh yeah, non sai quello ci abbetti, no? Io ci sono sempre di dubbio. Stavo procurando clienti. Sta attento, mai tu quando andi. A chi non si sa mai, mi ti pulita la neoperata, non al fegato, no, dall'altra al pancreas. E va poi su ribelli, non è più uscita da chi 30. Ehi, 30 armauri sei uscita. Grazie, non si può dire. Quando una cosa devi fare, poi si anda, anda, ci vada pazienza. Ti opere giù, vieni da me, tribù quelli blocchetti. Eia, eppure a Luca operiamo. Ehi, a Luca la coppa. Ehi, vabbè, già faccio la motosega, chissà, speciale. Con il disco, il diamante, nuovo, nuovo. E allora, gli tagliamo un po' da letto di pollo. Avvero. Avvero. Già, mascato, Mi doveva dare un appadaglio di chi si in plastica. E oggi mi è venuto male a passarci. Cosa gli fa un appadaglio? E mi servi. Di chi si a cupola, mi. È meglio la plafoniera, ba. In cucina io chi sapeva via anni la plafoniera. Poi ne ha divulgata e adesso c'ho una pala che ventola e la boccia con la lampadina, solo la lampadina, quella che volevo io non c'era e non ci sta, allora ne ho messo un'altra, però è manna e la boccia l'ho messa da parte, se no non ci sta la boccia. Ah, così è. Mi pare che si è avvisata la macchina, ma chi la voce ne ha bucato? E la gente lo tira a me, si è copiata nel paradente. Ci è rimasta la lampadina serpentina, perché avevo messo una lampadina di quelle rotonde a palla. Ah, e tu sei fasciata? E una di un bucciatino che si è bucciato nel paradente, quella boccia era in plastica, però si è spaccata. Ne c'è la sola, si è staccata, la lampadina è rimasta, la lampadina giù, appiccata. E lei di quella a neo a basso consumo, tutta attorcigliata, ed è grossa. E ha detto, beh, avara da quando si faccia tutto il raggiamo, già ce l'ho un'altra nuova. Ma sino a che si dura chissà la guissa. E non fai bene. E cosa ne ha di la palma? Tanto guardate se vuoi essere guardando, ma che non fa la voce, l'importante è che funziona. Non si ne ha bisogno di una paletta ancora. E la palaria, boh, non lo so se va bene con la cupola, attaccarlo sotto. Così non si vede il vuoto del portalampada, capito? Ma forse che già ci passa. Sì, sicuramente. E beh, ci passa, se ci passa il portalampada, quello che ho visto attaccato, ci dovrebbe passare anche questo. E vabbè, quando me lo daggio il voto, se no rimane così, quando si brucia la padina ribiasso l'altra. Vuoi fa? Io ne ho piazzato una da poco di plafoniera, un appartamento. Siccome non c'era proprio niente, c'era la rosone e basta, e i fili sotto. Oggi ho bucato un rosone e oggi ho messo la plafoniera. Sì, che non mi si passato in campagna da me cugnata, gliel'ho piazzato nel salone di quei lampadari complicati, tutti in acciaio, a faretto, tipo faretto. Gli ho piazzato quello, poi gli ho piazzato la plafoniera nel bagno, ma a 5 minuti mi va giù buco, tanto di che mi va giù buco. E più in cucina gliel'ho piazzato un altro lampadario modificato da me, e non te li avevo mandati le foto, adesso non ce li ho più, se non te li avrei mandati. E adesso va giù buco, male che tu va giù buco. E una mezz'oretta a ciamballi tutte e tre, cioè a ciamballi in cucina non finirà nulla, che lì c'era bruciato il dottor Ufficio. E allora lì gliel'ho sostituito e tutto quanto, gli ho messo un altro lampadario che ho autocostruito io. Un lampadario ho recuperato e gliel'ho messo a posto e già funzionava, a pariti sempre. Poi un salone e la plafoniera nel bagno. Secondo me i pareti a LED sono i migliori. E infatti io la trema ci siamo mandato tutti i lampadini. Tutti a LED c'ero, fatti in una ruzzi, bianca bianca, tutti bigliarucci buoni. Tutte le ho cambiate. In salone, in camera da letto, in bagno, in cameretta. Tutte a LED sono. E a basso consumo. Io che si latroni li ho presi. Molto costano. Allora, nella confezione ce ne sono tre. O attacco piccolo o attacco grande. Ne ho preso tre pacchi, nove lampadine, ci sono in tre pacchi. E attacco piccolo per i lampadari di camera da letto del salone. E un pacco attacco grande per l'ingresso e per il bagno. Anche il bagno le ho messe nello specchio e nel lampadario, là nella plafoniera. Va tu, va. Basso consumo. E poi vado lì, una luce qua, meravigliosa, sempre di giorno, sempre quando c'è il sole, dentro casa, così. Meglio, meglio. Perché luce bianca bianca, è bella pulita. Poi quelle di camera da letto fanno fosforescente, quando le spendo durano tutta la notte a luce, rimane, sembrano accese, quasi tipo quella luce blu notturna. Ma pure fammi un po' di correnti. E poi c'ho anche quei pareti, mi quando gara lo sole mi rentro, ne appoggio uno sul comone nell'ingresso, uno sulla mensola in salone, uno sull'altra mensola nell'ingresso, una in cameretta e una in camera da letto. E non accendo luce, passa e si accende quella e fa la luce con i letti stesso. E pare che vai la luce accesa, manna, compresa. Ehi, ehi, ehi, vabbè. Adesso con i... Adesso con questi lampadari, pareti a LED, a voglia, fanno un po' di luce. Me lo devo ordinare un faro a LED, con la prolunga lo lascio fisso in salone, e il pannello lo lascio fuori, lo puoi lasciare fuori giorno e notte, se voglio lo stacco, se no lo lascio attaccato anche. E lo puoi fare fisso, accenderlo e spenderlo tu, oppure funziona a quando passa si accende, capito? Se poi rimane lì, se rimane acceso. Quando ti niente si chiude la sola. Per il salone, 60 letti già. Buono! E invece di accendere il lampadario, tratto isso. È luce di bagnata. Anche se ho messo la lampadina a LED, sempre a 2.20 le fa andare, capito? Invece con quel faretto lì funziona a raggio solare, con la ricarica che fa il sole, no? Perché c'è il pannellino. Già vogliono i vasi di luce. Sembra di giorno, ti sto dicendo, con quelli piccolini. Quando basta, sembra che ti hai acceso la luce in alto, la notte si goza. Quasi la luce bianca bianca, Matteo, quei pannellini piccoli che c'ho. Vabbè, bianca a me se per lavoro. Se non mi ricordo, in camera se è gialla la mia. Lo dico fredda. Così, fredda e gialla, così. Com'è? Fredda e gialla e calda e bianca. No, queste sono fredde ed è bianca bianca la luce. Quella va bene per lavoro, dai, per me per saldare. Per lavoro? Con chi stai a Verivegia? Quasi sempre di giorno, mi adesso qua in cucina c'è il sole. Sembra così, mi qua come che ci sia il sole quando accendi quelle lampadine. Di tanto è naturale mi proprio la luce. Grazie, ma cosa ti devi abbattere in faccia? Beh, spendi qualcosina anche però. Oh, già risparmi la lastra bassa da buon. L'ingresso va via che ti dà la palina che rimane a gialla, la luce è rigico, non si vede dai occhi. Grazie, ma in faccia ti devi abbaidare. A te devi abbaidare, beh, in faccia, vedi se sei vento. Ma la sorte, io. Ti si deve punire, le fare a lei, ti si deve punire. No, veramente mi lascio gli affusi. Così ti vengo a quando basso i nomi. E chi mi non faccio di bassare? Saggio di venire, vengo a farti visita, buh. E così ti vengo a bianco bianco in faccia, vero Luca? E Luca? Ciao Tore. Ciao Luca. E da lei dove sei? E beh Marino! A Londra! Tutto ok, ciao Tore. Ciao Luca, ma Luca non ti ascolto. Luca. Ma come me non ti sente Marino, hai sentito? Ciao Marino. Senti, come me non lo senti Marino a Luca, lui ti sente. Ma io non lo sento, se appunto verso la zona tua io non ascolto. Io ti sento, è tutto peloso. Uia. Sono peloso, veramente mi sono lasciato. Hai visto? Un po' di vento c'è con fuori oggi. Luca, non ti sento. Tore, lo senti tu? Marino sì, ciao Mari. Tata non lo sento io. Andiamo a... Ciao Antonelli. Ciao Tore, anche a te, hai sentito Luca, eccetera, eccetera. Ma lì non sai che hai sbagliato quella rimettatore piccolino, quello che ho preso, per la fretta, l'ha rimettatore della telecamera, della 3 ampere. Quando facciamo quel lavoro tuo, scendiamo lì e me la faccio cambiare. Già c'ho già c'ho i foglietti. Non buttarci i sconti, insomma, non te cambia. E la fretta, Antonio, la fretta, Succede, succede. E adesso questi giorni se le chiedo la scala, come le chiedo, Antonio, e facciamo colà, facciamo, se no guai. Anche stasera c'è il venticello, né uno è l'altro, né uno è l'altro, proprio un casotto, non vedo dove va. Avanti, grazie, fa girare per Luca, io a Luca non ascolto. O si sposta, non lo so io, È permesso. Buonasera, ciao Bacchisio, ciao Torello, ben sentito. Luca, ha detto Marino, se ti sposti a provare perché lui non ti sente, ma tu lo senti? Eia, Marino mi senti? Marino, non l'ha sentito? Oh, ho sentito solo signor gigante e basta. Non lo sente, sente a Bacchisio e non sente a te, Avanti, facciamo girare, vai Bacchi! Gigante! Buonasera anche a Graziano, buonasera a tutti, anche a Antonello. E anche al signor Tore, lo stavo dimenticando, riprendi tu. Vuol dire Graziano, se non lo sente vuol dire che non è in posizione giusta. No, è sempre no. E allora, è la giusta pulisce a 90 rubi, a Luca. Luca, non sei in posizione giusta allora. Non si mette a 90 gradi o nulla? Lu! Vuol dire che voi lo mettete in corra puntati bene, i miei sono puntati male. Le antenne ci vogliono. Oh, bene orientate. Lavoro per Antonello. Vai Antonello. Antonello, scusa un attimino, guarda che sta accendendo parecchio. Un quarantena che ho preso ieri, dai. Prova così vediamo se tu mi senti. Io ieri a te ti ascoltavo, la tua a me no. Quindi prova a accendere quello e non c'è problema. Prova adesso se mi ascolti. Sì, Santiago 7, sì, segnale 7. Allora già va bene, dai. Ma chi mi ascolti adesso? Sì, io che ti ascolto, Marino, ti ascolto. Benissimo, Fondo Scala. Antonella, mi ascolti a me, buonasera. A voi già ti ascolto, segnali uno, sì, però già arrivi bene, a voi. E andrà bene, adesso vedi, l'unica cosa, in seguito mi piglio il motore, perché quello che c'ho si è cribbato, sì. Capito, si è che spaccata l'asse, già si può mettere a posto per quello, già non c'è problema. Adesso appena vado di là, me lo prendo, tanto costerà sembra un centinaio di euro, forse anche di meno. Con il control box e sono più tranquillo, così giro le corna dove voglio. Beh, vanto, lei ha un motore autoclave per girare. No, io solo una volta ho usato il motore elettrico cristallo e funzionava benissimo, quello della macchina. Ma per me busco un ricurri mio, funzionava molto meglio di quello che ci ho portato sopra, la verità. Cioè, avevo costruito una direttiva, ma io ti parlo del 90, quando abitavo in via Rizzito, avevo preso un'antenna di obiettivo Sardegna e mi sono costruito una direttiva e la facevo girare con quel motore nel tre di cristallo, funzionava benissimo. Corrido da giro, hai visto quella lì è puntata verso il seno di quella che ho messo ieri sul tetto che ho fatto veloce, là, già va bene, là. Pensate che mi ascolti, ma chi mi ha ascoltato, poi mi ha ascoltato, grazie, mi ascolta. Luca negativo, non ha ascoltato, ma non ascolto neanche io, avanti grazie. Ehi, a Luca adesso, da caso lo senti a Marino? Boh, Marino, mi senti adesso? Adesso sì, vedi che si è puntato verso Graziano. Ti hai messo a 90 gradi contro Graziano, avanti Luca. Ho girato le corna, dai. Va benissimo adesso Luca, ti ascolto abbastanza bene, dai. Ok, avanti to. Visto dai, che quando vuole le gira e va tutto bene. Vero, signor Bacchi? Vediamo un po', scusa Bacchi, buonasera anche a te. Un po', tu le corna messe bene ce li hai, sì? Io sono usato sempre le corna per parlare. La X300 l'ho buttata qua a casa. Figurati. La X30 c'era, quella che ti sente che è il secondo Marino, migliorata io. E conta la metà di quella che c'ho, dell'X300, figurati tu. Da me non andava bene perché l'ho piazzata sotto la mantova e faceva riflesso, capito? E quindi non riuscivo a uscire perché era bassa. Adesso quando cambierò il sistema metterò la verticale più giù, la direttiva da una parte e la mantova dall'altra, capito? E così c'ho, una volta che piazzo il motore mi uso quella direttiva, la metto orizzontale o verticale, adesso vediamo un po' se c'è come si chiama la possibilità di girarla col motore, in modo che gira il paletto e poi mi gira anche l'antenna, posso mettere verticale o orizzontale. E dove la punto ascolto, capito? Come si faceva tanti anni fa, quando c'era quel signore che era a Genova che con 25 elementi parlava tranquillamente con Sassari come se fosse la telefonata. Già va bene. Ma lì la direttiva sulla puntata a cosa segno, quindi dovrebbe ascoltare la zona della Corsica in teoria. Solo che magari non c'è neanche un cane lì in PMR. Io ero qui quando quando usavo la direttiva quella lì, quella della Telesystem, quando giravo verso Alghero sentivo le navi, capito? Sentivo le navi che la gente che parlava da lì col PMR tranquillamente. Ma ascolta, si può comprare qualche radio con quella carta? Sì, ma io ho comprato il coso, la verità, da Fusaro, ho comprato il CRC, ho comprato e il microfono, l'MB4, quindi puoi comprare anche baracchino con quella carta, vai da Fusaro, funziona benissimo. MB4? Sì, l'MB4 ho preso, nuovo, l'ho pagato 35 euro. Gli ho detto Mazzi, ha detto guarda se funziona, ha detto la carta, gli ho detto Mazzi, prova se funziona. Ho preso il microfono, ho preso anche il CRC e ti giuro che ha funzionato. E ho detto guarda, il prossimo mese ho detto figlio l'apparecchio omologato, gli ho detto, perché gli ho detto mi serve. mi ha fatto qual è il Zeus che vuoi, ho detto sì, voglio lo Zeus, gli ho detto, intanto viene 100 euro, e mi ha fatto va bene, dice allora il prossimo mese, dice te lo lascio la parte e te lo porti via. Va bene, dai. Anche la birra puoi comprare, se vai dallo Spi ti puoi piare naturalmente anche le lattine, non succede nulla a me. Che io sto distruggendo fesserie, mi. Ieri sono andato con me, c'era con Marino, sono andato, mi sono comprato l'alimentatore ai cinesi, anzi due alimentatori ho comprato, e un coso di quelle chiavi per poter capito, utilizzare per fare impianti d'antenna, che non c'avevo più chiavi, erano tutte sparite. E ho preso quello, ho visto che il banco ha funzionato, quindi è a posto, non è successo nulla, non me l'hanno bloccato né niente. Beh, è stato bene, quanto carica era? 700. Ciao! E anche te li danno così, ma ti credi? Tutti a 780 portano adesso a mese di giugno, quindi chi ti ha pigliato 180, che ne ha pigliato 300, o che ne ha preso 500, ne piglia 780. Tutti siamo a 780, c'è poco da sbagliare. O che sei singolo, o che sei in due, non cambia nulla. 780. 780. Ah, 180. No, 780. No, 780. Ciao, saluto circolare a tutti, a domani, che c'è gente. Ciao. Ciao, grazie, hai sentito, domani si concile. Saluto in casa, avanti da chi? Ciao Graziano, buona serata, saluti la signora e a domani se tutto coincide, bye bye, Tore riprendi. Dove andiamo, Tore? Eia, mi vabbè Daniel del giornale che domenica 19 ci sarà la cavalcata, hai compreso? Ma perché non lo sapevi? No, già abbiamo. Noi stiamo organizzando un'orgia al suo solito. Vieni anche tu, organizziamo tutto. Ok, riprendi, saluta il signor Graziano, stanno via perché c'è il in casa, vai. Andiamo, andiamo, bubbu. Vai, lo c'è a bacchino. Andiamo bene, andiamo bene. Avanti, Antonello. Saluta Graziano, ciao Graziano, buon corretti a domani, buon tutto. Mi, gira a bacchino, ci organizziamo, andiamo anche noi alla cavalcata. Andiamo a mangiare a bere, ci mettiamo vicino a quel caso dove c'è il vino, te lo ricordi? Dove c'è la botte, ci mettiamo lì con i portatili. Noi siamo del CER, stiamo facendo servizio. Sì, un adesivo da ce l'ho io, basta attaccarsi l'adesivo, oppure lo schema piccolino. E ti metti in fila lì, mangi e bevi. Servizio d'ordine. Allora facciamo servizio d'ordine, mangiamo e beviamo, ragazzi. Appena abbiamo finito che siamo belli, pieni, ce ne andiamo a casa e ce ne mandiamo a cagare. Minimo, vero to? Sì, anche no. Sì, si bagani, sì. A conto la confusione, sto facciamo. Facciamo a conto la confusione. Tanto idratano i telefoni, idratano i le cose non li buono idratare, l'hai compreso? L'hanno baciato, hanno fatto il casino. Oh, anche un viso buono fa vedere, compreso. Solo quello, Useranno il telefono normale, direttamente, o un codice. Sì, no, hanno provato a usare il PMR. Siccome ce ne erano molti che non erano in regola. E c'era la cosa, c'era, che lei era controllente. Ah, poi l'hanno mandato un conto, l'hanno mandato a tutti. Ah, c'è una cazzata per pure quella lì, boh, ma l'ho preso io. Ma intelligenti, scusa, ma che stavo utilizzando? I palloncini, non pensano? Ah, non lo so, io so solo che mi hanno detto, dice, che stavano usando apparecchi non omologati, con doppia cosa, senza licenza e senza nulla. Ma chi è quello che stanno facendo servizio d'ordine? Non lo so, Bacchi, me l'hanno detto un paio di settimane fa. Ma avete detto che li hanno chiamati, sequestrati tutti gli apparati che non erano omologati. E non ci avevano manco licenza per adoperarli. Sì, vuol dire che non erano in PMR, non ti preoccupare, sono stati in qualche frequenza, quando compri con gli apparecchi cinesi, la frequenza è 462-125, in piena frequenza ministeriale, capito? è per quello che vogliamo sequestrarti, perché se tu ti metti se prendi gli 888 e ci metti 16 canali dove non si legge nel display niente, che non c'è nulla, ci metti gli 8 canali PMR, stai tranquillo che non ti dicono nulla, questo è poco ma sicuro. Evidentemente stavano usando altre cose, a futtindini. Non lo so, so solo che dice che gli hanno dato una bella battosta di contravvenzione. Ma per lui quello che lo usavo io, quando ho fatto la cavalcata io, se ricordo a Bacchisi, io mi sono portato il Kembrumi in Piazza d'Italia. Il 680 mi sono portato, con lo GPP 4 tonni. E dentro di me c'era cosa, c'era? Quello dell'esco cosa c'era? Si è avvicinato, mi ha fatto Antonello, tu che apparecchio stai usando? Io gli ho risposto, il 680, perché hai problemi, gli ho detto. No, già ti aspetto fuori, stai tranquillo che aspetterai parecchio, gli ho detto, che tu parendo non c'entri, questo è poco ma sicuro, gli ho detto. Ha pigliato il bilese e andato, hai capito? E se ti dico di bene, quando abbiamo fatto anche la manifestazione del Sassariosino, la stessa identica cosa, perché sono parlato del 680 e nessuno mi ha mai rotto le palle, quindi figurati tu. Quindi vuol dire che quelli gli hanno combinato qualcosa, hanno preso gli apparecchi dai cinesi, con la frequenza ministeriale, oppure in VHF, quello che è, gli hanno detto cosa? Non lo so, vabbè dai, io mi stanno chiamando, ne approfitto, ok, ci sentiamo alle prossime, quindi, ciao Bacchisio, ciao Antonello, Graziano se ne è già andato, ciao Luca e ciao Marino. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Tom, ben sentito, a domani se conciderà. Sono tutto in casa. Avanti Bacchi. Ciao Tom, buona serata. Buona cena, buon tutto, sotto la signora. A domani se tutto ci concide, ce la sentiamo. Avanti Antonè. Ciao Tom, ci sentiamo con quel tipo, buon tutto. A domani. E alle prossime. Bei tempi quelli, Bacchi. Quando avevamo quegli apparecchi, gli apparati, il più forte ero io nella Piazza d'Italia, ti ricordi che era la portante c'era, adesso mi ricordo se era Torino Kawasaki chi era che metteva portante, che me lo mangiavo come niente con la Grand Prix, il problema è che entravo dentro le case acustiche nel comitato, e infatti ho dovuto abbassare da 50 watt che uscivo, ho dovuto abbassare a 15-20. Forte, copriva tutto il giro, copriva con quell'antenina, la Grand Plain c'era una Grand Plain sul palco lì. Infatti c'era la Grand Prix, c'era una in Piazza d'Italia, l'altra mi sembra che l'avevo piazzata, non mi ricordo dove. Ah, poi un'antenna c'era in via Lomberto, c'era. Perché la sera ti ricordi era via Lomberto, c'era il figlio di. Cioè il genero di cosa, di. Adesso non mi viene in mente il nome, già hai capito, il giovane della freccia. Poi la trasazione non mi ricordo se era come si chiama alla fine proprio del due fine battacciato. Comunque ci sentivamo tutti, grazie a Dio, chi usava il portatile, chi usava il baracchino con l'antenna telescopica dietro, con le batterie da 4,5. Un cia. No, cioè, l'antenna ce ne messa ancora una, in via Lomberto, nella sede dell'azienda di soggiorno. Ce ne messa ancora l'antenna fuori piazzata. Figurati, più abusivo di noi ce n'erano, erano tutti abusivi lì. Figurati, e facevamo servizio bene. Il problema è che poi, vabbè, è andato tutto male, se la biglia in Napoli a un certo punto. Avanti, riprendi Marì. Sono io. Ciao Antonio, se invece di scendere l'antenna, stavo pensando, e attacchiamo un cavetto di massa e proviamo col portarti da su a giù, cosa dici? No, devi scendere per forza l'antenna da sopra. Per forza l'antenna da sopra, bisogna fargli uno... una modifica lì per forza, perché gli mettiamo delle rondelle, li mettiamo in modo che faccia la spessore, smolliamo appena appena i bolloncini, compri quelle rondelle dentate, compri, in modo che quando stringiamo faccia la, la compressione e tocca la massa, in modo che non giochi, capito? La base è quando c'è lo stilo, hai capito? Il problema è solamente lì. Compriamo otto rondelle dai cinesi, pigliamo quante erano, mi sembra, se non mi ricordo male, se era 10 o 13, alla verità. Le rondelle già ne ho a casa, in acciaiolino ci va bene, vanno. Quelle rondelle dentate, ci vogliono. Dopo che abbiamo messo le rondelle dentate, allora le mettiamo all'esterno di silicone, o silicone o vasellina. Hai capito? Una volta che stringi la base non si muove più, non oscilla, hai capito? Ho capito, va bene, rondelle già ne ho, io quanto ne vuoi rondelle, però in acciaio inox, poi ci mettiamo la ghiaccia vasellina che già si rocca, con il balastro, boh, anche stasera ho provato, sta oscillando, ha tutto oscillare, boh, sia uno sia l'altro, sicuramente con l'effetto era solo quello lì, non c'è niente da fare. Bene, avanti. E come l'altra volta ti ha fatto, tale uguale, precisissimo. Quando oscilla lo stilo, tende a tocca non tocca la base, hai capito? E quindi non c'hai massa, anche perché l'attacco del piede, già l'hai visto che ci sono un centimetro e mezzo che spunta fuori, non di più. Di più non puoi andare, capito? C'è quel cavetto che fine messo giusto, salato così. È un casino, capito? Esatto. Dillo da Chiesa con chi stavamo parlando, appena attaccato, Antonè. Sì, c'era la Germania, poi c'era questo da Sudazzo, una cosa del genere, se non mi ricordo male. E io ho detto, ma che cazzo di paese è questo? E ha fatto fino di Venezia Giulia, mi ha detto. 9:10, 9:15, da chi stanno arrivando. Siamo uno, abbiamo provato l'altro e l'altro ancora. Avanti, da chi? Ma come mi ascolti di giù, Marino? Stasera, più bene, più male, com'è? Vabbè, la radio è un po' bassina, la radio. Come cosa va benissimo, è pulita. Sì, da fatta con Perlana. Ed Antonello, com'è Antonello a te il segnale? Segnale sempre uno, sì, però la radio già è buona. 4, là, ti posso dare. E il segnale non ce n'è. Dalle 5, Antonello, fa la cortesia, dai. 5 no, Marchisio dovrebbe cambiarsi quell'antenna, mettici anche lui una bella X30 come ce l'hai tu, in modo da uscire come si deve, no, di queste antenne autocostruite che dopo si usa, è peggio di avere la come si chiamava quell'antenna lì, la Ringo fatta in rame. Durava 6 mesi, dopo 6 mesi che il rame si oscillava, dovevi salire sopra il tetto, scende laggiù, pulirli con la vasellina e poi stuzzarli sopra la vernice. Un travaglio, dai, avanti, va qui. Aspetta, adesso li faccio sentire l'altra antenna, la verticale, Antonello, la verticale bianca. Questo qui che mi hai detto, segnale non ce n'è, così è. Uno o due di segnale. Aspetta, un attimo, no, 2 minuti. Io come segnale è buono qui da me, la radio leggermente bassina, però è pulita, capito? Non c'è né problemi, nulla. Sì, Antonello invece la radio è buona lo stesso. Sono il segnale è poco, però a spalle, io Antonello lo prendo alle spalle. E pure quello c'è pure quello, è come che io ho piazzato quella là verso segno, ma adesso quando salgo a prendere quella là me la giro verso sasso oppure verso produttore me la giro, perché in effetti quella zona non c'è niente, a me mi avete girato di là e ce l'ho puntata verso le pedicure, però in effetti non va di nulla, non fa nulla, me la giro avanti per... non c'è nulla, a Montalvaro. Sono verso Montalvaro, Maria. Sì, lui è l'unica. E vedi, adesso è puntata verso di là, comunque lui mi ascolta bene, non è sia forte, però mi ascolta, sia lui che su, Graziano e voi, diciamo, là. Già va bene, però la giro verso la zona dietro, la giro. Già va bene, dai. E sto utilizzando il cavo, quello tuo, quello grosso, figurati. Ma sto usando la direttiva adesso? No, adesso no, adesso no. Poc'anzi stavo utilizzando la direttiva. Poc'anzi. Insomma che, non ci arriva qui alla, al banco, non ci arriva. Ci ho messo, ci ho attaccato l'altro apparecchio, il portatile, capito? E rimane, ne facciamo spezzone arrivando fino a qua. Quando la giro e faccio la spezzone e faccio. Oh, capito. Rientrato sì, Antonello. Adesso ho sbagliato, Antonello. Ma sta sentendo, Antonello Bacchi? Come Antonello Bacchi? Pronto, sei Bacchi? Io sono qua. E qua, cerca Bagliano, è arrivata gente. E mio cognato è arrivato, mamma mia. Sempre allora, là dove hai bisogno. Sì, stavo dicendo, ma hai piazzato con la tua? L'hai piazzata? Con la tua l'hai piazzata? Io adesso sono con la direttiva adesso. Con la direttiva sì. Aspetto che c'è una. Che accendo la mia adesso, aspetta. Guarda se mi senti, ma chi? È più forte. Più forte ti sento. È molto più chiara la voce. E questa qui è piazzata verso il seno, l'hai piazzata, vabbè, tu ce l'hai puntata verso qua, così è. Io sono giù verso Monte Alvaro. E questa verso il ripetitore di seno, lì. Anda bene, dai, aspetta, stacco qua e salta con l'altro. Sì, dai, io devo scappare, Maria, ora di merendero per me, ora di medicine. Ti saluto Marino, grazie della quattro chiacchiere, sono in casa, a domani se tutto coincide, ma chi se passa in QRT. Ciao Antonello, buona serata anche per te. Che riprendo io, comunque mi sentite bene con questa qui, no? Forte, no? Forte, limpido e chiaro. Hai visto, quella direttiva. Però la giro, perché se no o la metto pure appunto verso Sassa direttamente, oppure la giro verso la zona di giù. Verso la zona di giù. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, domani se coincide, se in caso ci vediamo domani, mancanza, se in caso c'è qualcosa già ti chiamo, dai. Ciao, domani, dai. Ciao anche Antonello. Ciao Bacchi, sono entrato. Ci sentiamo domani, stavi bene, buon tutto, comunque vetti. E Antonello, la gente pure qua, ho visto che c'è il cane che sta abbagliando, sicuramente sarà mio cognato. Ok, e allora ce la faccio Antonello, quando salgo sul tetto la giro con l'antenna, là, o la giro verso Sassari, o la punto verso Montalvaro. Perché Bacchisio sta utilizzando la direttiva e la puntata verso Montalvaro e mi sentiva anche molto forte come radio, come modulazione, come cosa. Ok dai, Antonello ti avverto quando ho l'asso le chiedo davanti alla scala. Le chiedo, io mi organizzo e poi ti avverto, eh. Ok, ciao Antonè, ben sentito, saluto in casa, da domani se coincide, dai. Ehi, d'accordo, non ti preoccupare. Ci sentiamo domani, stavi bene, buon quelletti, buon tutto. È il tempo di capire dove richiede la scala, dove entra la scala, a quello lì, la scala perché a me mi si è bruciata, moretta, non prestata, poi l'ho usata io e mi si è bruciata, sicuramente me l'hai bruciata, come al solito, la moretta così le facciamo, le diamo un'altra rivigata, capito, e poi ci vediamo a fare che stavi dicendo. Ok, di nuovo, ciao Antonello, ciao. Via, l'unica cosa da fare è quella. Andiamo la una levigata, gli mettiamo le rondelle quelle dentate, in modo da fare spessore, e quando stringiamo, capito, tocca la massa, tocca le bullone e cose, una rondella fuori e una rondella dentro. E poi gli metti un po' di silicone intorno, li metti, in modo che non ti entri l'acqua dentro, almeno sei tranquillo. Ok, benissimo, dai. Bene, e poi le do una bella zuppata di grasso vasellina, quella bianca che già ce l'ho. Bene, ciao Antonio, ben sentito, saluto in casa, domani se coincide, ciao, saluto tutti gli ascoltoni e cuore di per me, dai. E io, ciao Mari, ciao, ci sentiamo domani.